Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Miopia, disturbo in crescita, nel 2050 interesserà oltre il 70% degli italiani. Se ne è parlato a Milanopia, il primo congresso scientifico interamente dedicato a questo disturbo refrattivo. A Obiettivo Salute il professor Paolo Nucci, organizzatore del convegno e docente di oculistica all'Università di Milano. Sì, ne abbiamo parlato, eravamo in 400 che hanno partecipato a questo convegno, nel quale si è sottolineato il ruolo della outdoor activity, cioè dell'attività all'aria aperta. Si è sottolineato che esistono oggi delle terapie mediche a base di atropina con dei dosaggi bassissimi, quindi nessuna tossicità, e si è parlato anche dell'attività esagerata da vicino che non solo fa diventare più miopi, ma sembra essere anche la causa di una particolare forma di strabismo caratteristica proprio dell'iperlavoratore ravvicinato. Per prevenire la miopia nei nostri bambini basta un'ora al giorno di giochi all'aria aperta e con le giuste dosi meglio TV e console per videogame rispetto a smartphone e tablet. L'approfondimento del professor Paolo Nucci sulle pagine di Obiettivo Salute. State bevendo un caffè? Ottima idea! Nella tazzulella è nascosta una miniera di sostanze antiossidanti preziose per la nostra salute. Una nuova conferma arriva da uno studio cardiologico su un campione di piemontesi. A Obiettivo Salute il dottor Sebastiano Marra, direttore del Dipartimento Cardiovascolare del Maria Pia Hospital di Torino, coordinatore dello studio e presidente dell'associazione Amici del Cuore Piemonte ONLUS. Quando abbiamo valutato circa 12.000 individui intervistati con quasi 70 domande fatte su tutto quello che è il modo di essere, di comportarsi, di sentirsi delle persone, abbiamo visto che circa l'80% della nostra popolazione beve il caffè, un pochettino più le donne che gli uomini. Mediamente la quantità di caffè che viene bevuta va da 1 a 5 tazze, e abbiamo visto che questo tipo di popolazione nostra non solo aveva la pressione arteriosa più bassa, aveva il colesterolo più basso, era fisicamente più attiva, tendeva ad avere una linea vita migliore di quelli che non bevono il caffè, ma dal punto di vista strettamente mentale c'era meno ansia. Bene, chi beve il caffè è meno ansioso. Quindi vuol dire che la sostanza che c'è nel chicco di caffè non è soltanto la caffeina, perché anche il caffeinato si comporta in modo omogeneo, ma sono tante sostanze antiossidanti, sono dei polifenoli che esistono in tante sostanze, ma della natura, soprattutto vegetali. Però nel caffè probabilmente ce n'è una quantità superiore alla media, e questi sono i benefici che dà il chicco di caffè o il bere il caffè dell'individuo. Potete ascoltare l'approfondimento del dottor Marra sulle pagine di Obiettivo Salute. Per oggi è tutto, vi ricordo che la programmazione di Radio 24 continua come sempre con Melog, ma io vi aspetto in diretta video insieme al professor Antonino Di Pietro per parlare di pelle e dintorni. Noi ci sentiamo domani, come sempre, a mezzogiorno a Obiettivo Salute, quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.